Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Francesco Carofiglio, autore del romanzo Walk, pubblicato da PM. Nella copertina c'è scritto: ho 15 anni e mi chiamo Walk. Non è una padella, è un diminutivo. Viene da, non ve lo dico perché è un nome lunghissimo che non riesco a pronunciare, che significa antilope bianca nella tribù dei Cheyenne. Francesco Carofiglio, allora, questo personaggio, Walk, questo ragazzo, come mai hai voluto chiamarlo così? C'è un significato, insomma, che si spiega nel libro? Sì, intanto il nome originale è Wokaio Wokomas. Io non sono riuscita a pronunciarlo. Sì, ma voglio dire, è normale che accada. È un nome Cheyenne. Wok è un ragazzo, nipote di un nativo americano, di fatto, è figlio di una ispanica. È un romanzo ambientato tutto negli Stati Uniti, tra Texas, New Mexico e Arizona. Ed è la storia di un viaggio, di fatto, perché il viaggio che attraversa questi tre stati, ma è la storia evidentemente anche di un viaggio interiore, di questo ragazzino rimasto solo al mondo in maniera drammatica all'inizio della storia, che va alla ricerca dell'unico superstite della famiglia e probabilmente va alla ricerca di una risposta che non ha mai avuto nella sua infanzia. Come mai hai deciso di ambientare questo romanzo, che è un romanzo di formazione, abbiamo detto anche di sviluppo psicologico del personaggio giovane, negli Stati Uniti? Beh, le cose succedono anche un po' a caso, insomma, sia per esserci stato negli Stati Uniti, sia perché ho conosciuto degli indiani Navajo, ho imparato delle cose molto interessanti sul valore del silenzio tra i nativi americani, questa cosa mi ha molto stimolato. Poi delle immagini che a volte ti vengono a trovare, non sai bene perché, questa immagine del deserto, di una strada che lo attraversa e di questo ragazzino da solo, è un'immagine ricorrente per un periodo, è stata per me. Poi, non trascurabile, anche se è un po' buffo, insomma, io da ragazzino leggevo Tex Willer, che era ambientato esattamente da quelle parti, e queste cose insieme hanno generato forse la storia. Però, ripeto, è un processo casuale, non progettato, non pianificato. Insomma. Un personaggio che c'è e non c'è in questa storia è la figura della madre di Walk. Walk all'inizio del romanzo rimane solo, appunto perde la madre, eppure questo rapporto con la madre è strettissimo. Hanno vissuto per anni un rapporto più di amicizia che fra madre e figlio. Quanto conta per Walk la figura materna? Sì, è giusto. In realtà è un rapporto di... Walk per la madre è quasi, non solo un amico, è quasi un padre talvolta, perché si prende cura di questa ragazza un po' sgangherata dalla vita difficile, complicata, però sempre molto amorevole nei confronti di questo ragazzino. Walk cresce molto velocemente e vede cose che è spiacevole che un ragazzino veda, ma chiunque veda, perché Alice, la mamma di Walk, ha dei problemi palesi di dipendenza e questa dipendenza la porterà evidentemente in una strada senza uscita. Però tutto questo non è un, come posso dire, un elemento che grava sulla storia come paradossalmente come l'aspetto più importante, pur essendo estremamente drammatico. L'aspetto più importante per me che scrivevo era invece l'esatto contrario, cioè l'amore assoluto che lega questi due, madre e figlio, che si riesce a sviluppare e a valicare anche il confine ultimo, che è quello della morte, insomma. Quindi, nonostante la morte di Alice, che è all'inizio della storia, quindi non si svela nulla, il rapporto rimane intatto, continua, e Walk continua ad essere accompagnato dalla voce di Alice nel corso del suo viaggio. Infatti c'è sempre un dialogo, insomma, con questa figura materna, anche se è scomparsa, quindi una figura fondamentale nella vita di Walk, che continua a guidarlo anche appunto dopo la morte. Sì, sì. C'è materialmente un dialogo, il romanzo è tutto narrato in prima persona, è Walk che parla, e lui si rivolge ad Alice, intanto chiamandola Alice e non mamma, anche con Alice che non c'è più, al presente, quindi come se lei fosse di fatto lì accanto a lui. Accanto a lui c'è un termos, un contenitore con le ceneri di Alice, che lui porta nel cruscotto dell'auto. Anche questa cosa non è una cosa macabra per me, ma è una cosa che segna un legame indissolubile. Lui, quando decide di fuggire, prima che gli assistenti sociali vengano a prenderlo, fugge con l'auto di sua madre, non potendo ancora guidare perché non è ancora in età, ma lo sa fare perché ha imparato molto giovane grazie ad Alice, e porta con sé, insieme a pochi bagagli e a pochi soldi che riesce a mettere insieme, le ceneri di questa ragazza, mamma, madre e amica. Infatti non c'è assolutamente niente di macabro in questo, perché poi si capisce anche dal passo del romanzo, insomma, che è veramente incentrato tutto sulla figura di Walk, sui pensieri di questo ragazzo. La cosa che mi è piaciuta di questo romanzo è stata soprattutto la scrittura, cioè sei riuscito a rendere perfettamente in prima persona, secondo me, la voce di un quindicenne. Come hai fatto? Intanto grazie, perché è un bel complimento, perché oggettivamente questo era un problema per la scrittura. Bisognava cercare, possibilmente trovare, ma perlomeno cercare una leggerezza nel dire che appartenesse a un'età evidentemente differente dalla mia, ma anche un tipo di profondità che fa parte di un bagaglio dell'adolescenza. Quindi a volte i ragazzi nell'adolescenza sono capaci di dire delle cose sorprendenti. Walk poi è un ragazzo che è cresciuto molto velocemente, quindi mette insieme la saggezza di un ragazzo che è cresciuto velocemente, che sa come vanno le cose del mondo, le mette insieme ad una naturale, inevitabile paura per il futuro che si manifesta nel corso del viaggio in maniera poi crescente, man mano che le cose vengono fuori. Quindi grazie, se è arrivata questa, come dire, se è arrivata la linea della scrittura del ragazzo, per me è una bella cosa, insomma. Io, ecco, l'ho proprio vissuta in questa maniera. Infatti secondo me è un libro che potrebbe essere letto moltissimo dai ragazzi, dai giovani, perché possono identificarsi anche nel processo mentale di Walk. Secondo te a che pubblico è rivolto? Tu per chi l'hai scritto? Allora, io non l'ho scritto per nessuno, nel senso, o meglio, l'ho scritto per, come sempre, per tutti, per me, per tutti, insomma, non faccio mai un calcolo sul target, come si dice. Però è vero che i ragazzi hanno un processo di identificazione molto forte. A me capita di andare in molte scuole, sono molto contento di questo. Ragazzi anche a partire dalle scuole medie, fino poi ai licei, agli istituti superiori, c'è una risposta attraverso il passaparola, cioè è uno dei casi, rispetto anche ad altri miei libri, in cui il romanzo non viene imposto dai professori, ma sono stati i ragazzi a chiedere ai professori di incontrarmi. Quindi questa è una cosa che mi piace molto e sono molto grato a loro, e mi dà il senso che forse qualcosina è andata nel verso giusto, insomma. Prima citavi Tex, tu hai fatto anche un graphic novel, insomma sei un autore piuttosto eclettico, romanzi, graphic novel, qual è la tua forma espressiva, in quale ti trovi meglio? Qui io prendo a prestito le parole di un romanziere vero, cioè di Buzzati, che oltre a scrivere romanzi in realtà dipingeva, e lui era anche un po' indispettito del fatto che non lo riconoscessero come pittore ma solo come scrittore. E allora diceva una cosa che presto a poco suona così, e io mi ci riconosco in pieno: che io abbia un pennello in mano, una matita o una macchina per scrivere, quello che a me interessa fare è raccontare delle storie, e questo è quello che io provo a fare. A proposito del riconoscimento, no? Tu sei fratello di Gianrico Carofiglio, un autore che è molto conosciuto soprattutto per la saga dell'Avvocato Guerreri, insomma, ma per tanti altri libri. Questa cosa ti pesa, ti ha facilitato? Come vivete questo fatto che due fratelli in famiglia fanno comunque gli scrittori, gli autori? No, non mi pesa affatto. Io credo che la fortuna risieda nel fatto che siamo veramente molto diversi. Cioè, scriviamo cose diverse, in un modo diverso, storie differenti. E questo ci consente di avere insieme una totale autonomia e anche la libertà di porci, come dire, di apprezzare nella lettura l'altro, l'un l'altro. Noi ci leggiamo sempre dopo, mai prima che il romanzo sia uscito, proprio perché vogliamo fare in quel caso il mestiere di lettori. Quindi non c'è, mi dispiace, perché questa cosa credo che movimenterebbe più le cose, dire che ci prendiamo a calci, no, ci leggiamo volentieri. Ecco, non vi prendete a calci, però insomma lui non è il tuo primo lettore e neanche tu il suo primo lettore. Ma questo per scelta, non perché, cioè perché ci piace l'idea di arrivare a leggere il libro quando è confezionato e quando è diventato un oggetto, insomma come se lo prendessimo in libreria, per cui va bene così, insomma. Grazie Francesco Carofiglio, in libreria con Walk, pubblicato da PM. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.